Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. E oggi torniamo a parlare di automobilismo, perché l'automobilismo si presta a essere raccontato, si veste di leggenda, soprattutto un certo tipo di automobilismo, non certo quello di oggi, che vede degli abili calcolatori che conquistano pole position, che lasciano lo spettatore un po' annoiato, non a caso, insomma, oggi per il motociclismo si dice ha vinto Tizio, Caio, Valentino, Rossi, Marquez. Per l'automobilismo si dice ha vinto la McLaren, la Ferrari, la Mercedes. Questo sta già a significare quanto oggi la programmazione e la tecnica abbia la meglio sugli uomini. Bene, noi invece vogliamo parlare di uomini e parliamo di un pilota che è riuscito a vincere competizioni su auto diverse, in diverse categorie, in diversi continenti, con diversi modi di approccio alle corse. Appartiene a quella generazione in cui correre significava sfidare la morte a ogni curva. Oggi parliamo di Mario Andretti. È un pilota americano di fatto, ma come si capisce dal nome, il viaggio di Mario Andretti parte dall'Italia, un'Italia diversa, coi confini diversi da quelli di oggi. Torniamo a parlare di un'Italia in cui l'Istria faceva parte del territorio italiano, in una cittadina che si chiama Montona, il 28 febbraio del 1940, cioè in pieno conflitto, nascono due gemelli, Aldo e Mario Andretti. E poi la situazione precipita, lo abbiamo raccontato altre volte, perché per combinazione da quella terra sono usciti un sacco di personaggi, Sergio Endrigo, Nino Benvenuti, Laura Antonelli. Evidentemente il dolore crea anche situazioni in cui si vola in alto e si danno colpi d'ala. Quindi l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia e la famiglia Andretti, che come decine di migliaia di famiglie è costretta a abbandonare tutto, a fuggire, a trasformarsi in una famiglia di profughi, a scappare dagli orrori del comunismo, delle foibe e da tutto quello che comportò quel periodo per la terra di Istria. Vanno a Lucca e Mario Andretti arriva a Lucca a 8 anni con dei ricordi che non sono certo piacevoli. I primi 8 anni della mia vita non sono stati facili. Vivevamo nell'incertezza del futuro e con gli occhi di un bambino mi vedevo circondato da genitori e parenti che parlavano in continuazione di politica. Non c'erano molti momenti felici, pensando che questa fosse la vita normale. Ed è una situazione di stallo che va avanti fino al 1955, quando finalmente la famiglia Andretti riesce a ottenere il tanto sospirato visto per gli Stati Uniti, prova ad andare a costruirsi un futuro migliore. Lui ha 15 anni, in casa sua fino a quel momento non c'è mai stata un'automobile, anche se nel settembre del 54 lui era stato accompagnato con il fratello a Monza e aveva assistito a un gran premio di Formula 1. Alberto Ascari was our idol. Alberto Ascari era il mio idolo, campione del mondo con la Ferrari. Vederlo correre quel giorno a Monza è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. È quando il sogno di un bambino diventa più grande e diventa un obiettivo da inseguire. Un giorno voglio essere come Ascari, voglio correre a Monza. I want to be like Ascari, I want to be here in Monza, and you know all those things. Is that melody? Aldo e Mario, i gemelli Andretti, condividono molte cose, hanno gli stessi gusti, le stesse passioni e l'impatto con gli Stati Uniti li catapulta in un mondo completamente nuovo in cui, tra tutte le altre cose, ci sono le automobili, la possibilità di coltivare una passione partendo da quello che accade a pochi passi da casa loro, dove c'è una pista di terra dove si svolgono le gare di stock cars. Le stock cars sono auto modificate artigianalmente, nelle quali ci si fa le ossa, Volano scontri, sportellate, insomma uno sport molto spettacolare da un certo punto di vista, molto americano. Per i due fratelli Andretti questo è un raggio di speranza. Il sogno rimane Monza, con le macchine sofisticate, luccicanti, con le macchine di Formula 1, però bisogna pur cominciare. Così i due fratelli iniziano a risparmiare soldi per potersi costruire una macchina con le proprie mani e iniziano a gareggiare. È il marzo del 59, tutto all'insaputa del padre. E dei due gemelli, Aldo è quello che inizia a correre per primo, ma la sua carriera finisce nel 69 senza grossi risultati. Invece l'altro, Mario, comincia a correre nelle gare sterrate di stock cars, poi passa alla categoria sprint, poi a quella delle midget, che sono le categorie in cui le auto corrono su piste ovali sterrate con tutte quelle derapate, le avrete viste qualche volta. È un lento avvicinamento alla gara delle 500 miglia di Indianapolis, che è il sogno di ogni pilota americano, un sogno difficile da inseguire in quegli anni. Sono anni in cui la morte è veramente un copilota sempre presente in ogni gara, a ogni livello. Le auto non sono sicure, gareggiare in quelle condizioni è una scommessa continua. Two races, we lost four guys. In due gare abbiamo perso quattro piloti, una cosa orribile. Ma quella era la realtà di quei giorni. È una realtà dura e difficile, che però non toglie l'entusiasmo a Mario Andretti, che nella bolgia delle gare minori comincia a farsi notare, sognando di diventare il numero uno. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1965, Mario Andretti debutta sul circuito di Indianapolis. Per lui è la prima volta che gli capita di correre davanti a un pubblico così vasto, con una vera auto da corsa, con la pressione di essere un debuttante. Bene, quarto tempo nelle qualifiche, terza posizione alla fine della gara, un esordio alla grande, che fa puntare su di lui i riflettori degli esperti, che lo considerano il migliore esordiente dell'anno. Insomma, il sogno sta lentamente diventando realtà. Non è più il momento di correre sulle piste polverose di seconda categoria. Per Mario Andretti si aprono le porte di un mondo nel quale rimarrà per più di 30 anni. Naturalmente, dopo un esordio così brillante, c'è sempre bisogno di mantenere le aspettative. Lui non si lascia intimidire dai grandi campioni che corrono con lui nella Formula Indy. E comunque, dopo l'esordio, nei tre anni successivi, lui vince una serie di gare senza centrare il grande obiettivo della gara di Indianapolis. Però contemporaneamente si sta cimentando anche nell'altra categoria, quella delle stock cars, dove aveva iniziato, dove vince la 500 miglia di Daytona. Insomma, dobbiamo abituarci a avere a che fare con un pilota che partecipa e vince gare diverse in diverse categorie, che mostra una versatilità e uno spirito di adattamento alle diverse condizioni delle auto con cui gareggia, che sono uniche. Difficilmente uno riesce a emergere con tipi di automobili così diverse tra di loro. Insomma, Mario Andretti è disposto a tutto pur di inseguire il suo grande sogno. In realtà, nel 65, quando ero un esordiente, aveva vinto Jim Clark, ma lui aveva esordito l'anno prima, quindi era solo questione di attendere che gli eventi facessero il loro corso. Ma quell'anno andai da Colin Chapman e gli dissi: Colin, un giorno correrò in Formula 1. E lui mi rispose: Mario, quando pensi di essere pronto, chiamami. Mario, when you think you're ready, call me. And that was a fact. Eh sì, call me, chiamami, perché Colin Chapman è una delle eminenze grigie della Formula 1 da sempre. L'ex pilota fondatore del team Lotus, della omonima azienda. Insomma, Andretti inizia a correre per lui in Formula Indy, però lui vuole sedersi a bordo di un'auto di Formula 1 e ha la sfrontatezza tipica di chi è giovane e lo dichiara apertamente a Colin Chapman. Così nel 68 Chapman gli dà la sua chance e lui fa il suo debutto nel campionato di Formula 1. Non in Europa, non a Monza, dove avrebbe voluto, ma esordisce a Watkins Glen, nel circuito statunitense, davanti al suo pubblico. È subito pole position. Tanto per far capire a tutti di che pasta è fatto, però durante la gara viene trallito dalla frizione. Per il momento questa è la sua unica apparizione nel circo della Formula 1. And the 1969 Five of our race is on. Turn one, come in Mike Ahern. And Mario Andretti dives low to turn one to take the lead, followed by AJ Boyd, Bobby Unser. Andretti's out in front. E questa invece è la telecronaca di una vittoria importante, la vittoria di Indianapolis. Siamo nel 1969 e lui è tornato a correre anche in Formula Indy e inizia la gara male. Durante le qualificazioni c'è un incidente, la sua Lotus diventa inutilizzabile, deve correre con il muletto, che ovviamente non è veloce come la macchina principale. Qui viene fuori l'animo del campione, il colpo d'ala, quello che permette a Andretti di vincere con un'auto inferiore alle altre, ma c'è una simbiosi tra auto e pilota che fa esplodere le potenzialità di entrambi. Per il pilota italo-americano, che è passato da un ingaggio di $200 a quello di un paio di milioni di dollari in poche gare, è il coronamento di un sogno. Questo sembra essere solo il primo di una lunga serie di successi. Lui è Mario Andretti e continua a essere il pilota versatile al quale ci ha già abituato. Gare differenti, auto differenti, modi diversi di guidare, e intanto vince, convince tutti. Lui può guidare un'auto da Formula Indy la domenica e poi dopo due giorni sedersi su una stock car, magari su uno sterrato, e poi passare una monoposto da Formula 1. Questa è la sua forza, si adatta con grande facilità a qualsiasi tipo di guida. Ma proprio quando la fortuna sembra sorridere al pilota italo-americano, inizia un periodo di difficoltà che interrompe la sua striscia positiva. Insomma, sembra non riuscire più a vincere in Formula Indy e decide di cambiare aria. Anche se nel periodo dal 70 al 75 ho avuto grossi problemi in Formula Indy, dovuti principalmente al fatto che le auto che guidavo non erano un granché, per fortuna riuscivo comunque a vincere sempre qualcosa nelle altre categorie, e questo teneva alto il morale. So it was never a big letdown. Dunque, intanto apro una parentesi e facendovi notare, se non l'avete notato anche voi, il fatto che Andretti, che parli benissimo l'italiano, continua a parlare in inglese. Questo perché in Italia pochi si sono interessati alla sua leggenda, quindi siamo particolarmente fieri di farlo noi. Siamo arrivati agli anni 70 con la carriera che si sposta al di là dell'oceano, cioè che arriva in Europa, e qua ci sono le grandi scuderie della Formula 1. Sono gli anni in cui Andretti si siede prima a bordo di una Lotus, poi scende un po', va alla Parnelli, che è una scuderia americana che fu una meteora nel circo della Formula 1, e poi nel 76 finalmente torna con Colin Chapman alla Lotus. Però si sa, chi frequenta la Formula 1, soprattutto se poi è di origine italiana, ha nel cuore il rosso della Ferrari. Lui ha già guidato delle Ferrari negli Stati Uniti in altre categorie, conosce Enzo Ferrari, lo stima, lo venera, e non nasconde il suo desiderio di correre a Monza a bordo di una rossa. Ma per gran parte della carriera il corteggiamento reciproco tra Andretti e Ferrari sarà un balletto che non porterà risultati. Ogni volta che arrivava da parte loro una buona offerta per correre, io non potevo accettare perché ero legato ad altri team. Viceversa, quando io mi rendevo disponibile, non c'erano posti a disposizione. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mario Andretti, un pilota che parte anche lui dalla tormentata Istria, nasce nel 1940, quindi a cavallo della guerra, della tragedia istriana, va negli Stati Uniti e diventa un pilota che vince un po' dappertutto, perché è uno che conosce bene le automobili, conosce il mezzo, vince in Formula Indy, nelle gare sterrate delle stock cars, approda la Formula 1, una fantastica vita piena di grandi soddisfazioni sportive. E stiamo parlando di anni in cui la sicurezza non è all'avanguardia come oggi. Ogni gara è una scommessa da vincere contro la morte. C'è un altro aspetto che differenzia le corse di quel periodo, gli anni 70, da quello di oggi, perché i piloti non sono dei robot programmati per vincere, sono uomini con una carica agonistica, con la follia della rockstar più che con la bravura del tecnico. Sono persone portate a giocarsi sempre il tutto per tutto e incuranti del rischio che stanno correndo. Ho sempre fatto molta attenzione non solo a cercare di vincere una gara, ma anche a chi arrivava secondo dietro di me. Vincere è sempre stata una grossa soddisfazione, ma, per esempio, se riuscivo ad arrivare primo davanti a un grande come Jackie Stewart, la vittoria diventava ancora più importante. E così Andretti fino al 75 corre in Formula 1 saltuariamente e alterna questo con le gare di Formula Indy. Lui ha sempre sostenuto che la sua doppia carriera che in quegli anni ha portato avanti è stata resa possibile solo grazie all'esistenza del Concorde, cioè l'aereo che in poco più di 3 ore collegava Londra o Parigi con New York, così poteva correre in Europa in Formula 1 e magari il giorno dopo essere in pista a Indianapolis. Super uomini. E poi arriva il 76, l'anno della svolta o della scelta. Decide di rimanere a tempo pieno in Formula 1 perché accetta l'offerta di un vecchio amico che in quegli anni gli ha sempre tenuto una porta aperta, ancora una volta Colin Chapman. Colin, had probably the worst... Colin stava vivendo il peggior weekend della sua carriera. Le macchine non erano affidabili e spesso era difficile riuscire a qualificarsi. Io volevo restare in Formula 1 e dissi a Chapman che ero pronto. E lui mi rispose semplicemente: ho un posto per te, puoi correre per noi. E io dissi: lo faccio, ma devo essere il numero uno. E così Andretti inizia a correre stabilmente per la Lotus sul finale di stagione del 76. I risultati arrivano subito: Gran Premio del Giappone, pole position e vittoria, la prima per la Lotus dopo 31 gare senza avere mai raggiunto il gradino più alto del podio. Sono anni di grandi cambiamenti tecnici nelle auto, l'arrivo dei motori turbo, le minigonne, quelle che creano il cosiddetto effetto suolo, sono accorgimenti che rendono le auto sempre più veloci. Però le grandi prestazioni non sono ancora abbinate alla sicurezza e sono ancora macchine veloci e scarsamente affidabili. Alla guida in quegli anni c'è gente come Hunt, ne abbiamo parlato, Niki Lauda, Fittipaldi, ne abbiamo parlato, Peterson, Jody Scheckter, e poi c'è Mario Andretti che lavora con i tecnici della Lotus per migliorare un'auto che sta facendo fatica a dimostrare quanto vale. La cosa che sapevamo bene era di non avere la migliore macchina e quindi dovevamo rimboccarci le maniche e lavorare con modestia cercando di migliorare. E mano a mano che la stagione andava avanti, anche i progressi rendevano l'auto sempre più veloce. E arriviamo così al campionato del 78. La Lotus si presenta con 2 grandi campioni, Mario Andretti e Ronnie Peterson. Tra l'altro c'è un restyling, la Lotus che era verde e gialla diventa splendidamente nera e oro grazie a una marca di sigarette, e comincia a vincere, anche se c'è correttezza tra i due, un patto di reciproco rispetto che fa sì che ognuno guardi le spalle all'altro quando ci si trova in testa. Però Andretti e Peterson stanno diventando una coppia imbattibile. Settembre, Gran Premio di Monza, e Andretti è primo con 63 punti, Peterson secondo con 51. È una sfida a due. Alla partenza però Peterson è coinvolto in uno spaventoso incidente con altre 10 macchine. Ha diverse fratture alle gambe e viene trasportato in ospedale mentre la gara riparte dopo una lunga sosta. Alla partenza Andretti e Gilles Villeneuve partono in anticipo, vengono penalizzati di 1 minuto, sono in testa alla gara, si stanno contendendo il podio anche se sanno che non verranno premiati perché retrocessi, ma in quel momento il duello si fa lo stesso. Mario Andretti ha scavalcato Villeneuve, i due sono penalizzati di 1 minuto ma lottano con grande grinta per guidare questo 49esimo Gran Premio d'Italia così travagliato. E a 5 giri dal termine Andretti supera Villeneuve per un duello inutile, è solo l'onore in ballo, tanto è vero che con il minuto di penalizzazione lui rischia la vita per battere Villeneuve e poi si ritrova sesto in classifica, che in quegli anni voleva dire un solo punto. Arrivano intanto le notizie sulle condizioni di Peterson. Lui è un pilota alto rispetto alla media, quindi le ferite alle gambe sono più probabili e in questo caso sono la principale preoccupazione. Andretti sa che Ronnie è cosciente, che non è in pericolo di vita, sta facendo i suoi calcoli, a due gare dalla fine capisce di essere diventato matematicamente campione del mondo con Peterson fuori dai giochi. Si festeggia in modo misurato perché ci si preoccupa, ma lo ripetiamo, sono anni in cui l'incidente è una componente con cui i piloti convivono, quindi non c'è ipocrisia nella volontà di Andretti di gustarsi una vittoria che ha inseguito per tutta la carriera. Il destino certe volte ha uno strano modo di portare avanti le cose. Pensavo a quanto lo avrei preso in giro per il fatto che a causa dell'incidente non fosse riuscito a starmi dietro. La mattina dopo, mentre stavo andando in ospedale, venni a sapere che Ronnie era morto. E rimasi scioccato. Non avrei mai pensato che le sue ferite gli fossero fatali. Eh sì, Ronnie Peterson, uno dei piloti più belli e affascinanti del circo della Formula 1 di quegli anni, viene colpito da un'embolia, muore la mattina dell'11 settembre 1978. E questo cambia le cose, perché è vero che hai vinto il campionato di Formula 1, ma un tuo amico è morto proprio in quella gara, e questo è un dolore che accompagnerà Andretti per il resto della sua carriera. Quando convivi con la morte, si sa, impari anche a superare i traumi che la morte presenta. Andretti rimane l'ultimo pilota americano che vince un campionato di Formula 1 e comunque realizza il sogno del bambino istriano che scappa dalla guerra. Il 1978 è il momento di massima gloria per Andretti in Formula 1. Qua il volo arriva più in alto possibile. I due anni successivi con la Lotus sono deludenti, poi si passa all'Alfa Romeo senza grosse soddisfazioni, poi nell'82 c'è un altro colpo d'ala. Andretti corre in aiuto dell'uomo che ha sempre considerato il suo idolo, Enzo Ferrari. È l'anno più tragico della storia della Ferrari, della scuderia di Maranello, perché Ferrari si ritrova senza piloti. Villeneuve è morto a Zolder durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Pironi intanto ha avuto un terribile incidente prima del Gran Premio di Germania, è un incidente che ne provocherà al definitivo ritiro dalle corse. Ferrari chiede a Andretti di salire su una rossa e di andare a gareggiare a Monza. Il direttore di corsa San Cristoforo si prepara a dare il via, rosso, e si sta per partire, salgono i motori, verde, partiti, parte molto bene Andretti, è veloce anche Piquet, si infila. També riesce ad allungare Piquet, seguito da Andretti, e se ne andiamo errati da Prost. Mario Andretti e Patrick També sono i due piloti che cercano di portare a casa il titolo costruttori del 1982 a Maranello. Però quell'anno il campionato sarà vinto da Keke Rosberg, saranno solo 6 punti di differenza su Pironi, che non disputerà gli ultimi 5 Gran Premi. Con i punti conquistati a Monza da Andretti, la Ferrari vince il titolo costruttori. Il pilota americano almeno corona quel sogno, il sogno di essere uno che ha corso a Monza con la Ferrari. Provai la macchina a Fiorano e mi accorsi di avere un buon feeling. Non avevo nulla da perdere, quindi il giorno della gara diedi il massimo. Quando accadono cose inaspettate, niente può andare male. E così riuscii ad arrivare terzo. Fu una grande soddisfazione e mi sentivo di nuovo italiano. Con questa gara Andretti chiude la sua carriera in Formula 1. Continua a correre in America, nella scuderia fondata da Paul Newman. Corre la 24 ore di Le Mans nel 94, a 54 anni, annuncia il suo ritiro definitivo, lavora col figlio Michael Andretti, che ha anche corso in Formula 1 ma con scarso successo, e poi nel 2003, a 63 anni suonati, torna in pista per qualificare la macchina del figlio alla 500 miglia di Indianapolis. Lì ha un incidente, l'auto decolla, si cappotta, ne esce illeso per miracolo e forse è proprio quello il momento in cui capisce che a 63 anni in macchina si va solo in autostrada o a fare la spesa. Oggi Andretti fa parte della Hall of Fame dei piloti automobilistici, è commendatore della Repubblica Italiana e dopo 111 vittorie su 897 gare può vantarsi di aver avuto una vita spaventosamente ricca di soddisfazioni, una vita a tutta velocità. Noi vi aspettiamo con altre storie di colpi d'ala fatti anche in pista, e ne racconteremo ancora di storie di grandi campioni di quell'automobilismo, quello che ci piaceva così tanto. Se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, interagite con me o sul sito di Radio 24 o sui miei social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete che potete trovarmi. Ciao, a domani.